solo tu. Fuori a cena, soli con l'intimità di una candela, e sicuri di creare l'atmosfera giusta di chi vuole amare. Impazienti come mai, nel silenzio intorno a noi, solo tu, questa sera, per alzarmi ancora un giorno insieme a te. A me tastiere il maestro Sergio, e poi lo sentirete anche alla Fisa da Rinsho e la Fisa da Tango. Solo tu, solo tu, qui vicino, le mie voglie tra i capelli sul cuscino. Solo tu mi sai dare cose vecchie sempre nuove da sognare. Mille volte tu lo sai, non è stato uguale mai, solo tu. Notte intera per svegliarmi ancora un giorno insieme a te, vai. La voce di Giussi Mondragnani per voi.